La vita in un film di Franco D'Assisi. Terapia Tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribaico per Fadina, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta. No, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? Che brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Basta, o sì, mi segua al commissariato, prego. No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia Tapioca. Che dopo succede, Paolini? No, nulla, buongiorno, signor Nicchi. Buongiorno. Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua? Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza, solo due colpettini, così. Paolini, non vorrà mica farne una questione. Via, lei è sempre stata una persona ragionevole. Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da Bischero. Bravo, Paolini, bravo. Buonasera da Franco D'Assisi, 18:07, La vita in un film, il programma di Radio 24 sul cinema e su noi che al cinema ci andiamo e magari ci rivediamo anche dentro i film. Come avete capito dalla mitica supercazzola di Mario Monicelli, da Amici miei, questa sera parliamo di scherzi, speriamo di allietarvi magari una mezz'oretta appunto di buon umore, di scherzi storici del cinema. Magari siete in macchina, state rientrando dalle vacanze, di voglia di scherzare ne avete poca, però noi cerchiamo di tirarvi un po' su, e come sempre lo facciamo anche chiedendovi qual è lo scherzo principe che avete visto al cinema, che magari avete rifatto nella vostra vita o nel quale vi siete immedesimati, nel senso che avreste voluto in qualche modo essere lì in quel momento. Di scherzi il cinema ne ha regalati tanti. Amici miei è stata una miniera assoluta di idee, a partire appunto da questa famosa supercazzola della quale parleremo tra poco con il suo papà, almeno cinematografico, Mario Monicelli, che sarà il nostro ospite di questa puntata. 800 24 00 24 è il numero di telefono qui di Radio 24 per intervenire. Come sempre a disposizione molti biglietti per serate cinematografiche davanti a un grande schermo. E noi dicevamo, abbiamo cominciato con Amici miei, che è una sorta di miniera di scherzi, ma ce ne sono tanti che siamo andati a recuperare dentro i nostri archivi. Mario Monicelli, quindi, però, per farci un po' da cicerone dentro questa puntata della vita in un film, in attesa di sentire cosa ne pensate voi, in quale scherzo vi siete rivisti o quale scherzo avete magari rifatto in futuro fra quelli rubati appunto a un film. 800 24 00 24 è come sempre il nostro numero di telefono, c'è anche il numero per i messaggi SMS, 349 238 6666. E allora, Mario Monicelli, benvenuto alla vita in un film. In Amici miei la goliardia diventa uno strumento di fuga dalla realtà, in dubbio, e i protagonisti sono protagonisti non giovanissimi. Ecco, questi non sono gli scherzi di buontemponi trentenni, quelli erano tutti professionisti, gente di una certa età. E allora le chiedo, Monicelli, gli italiani di oggi, di quella generazione o quantomeno di quell'età e di quell'estrazione sociale anche, hanno ancora voglia di giocare come i suoi protagonisti? Ma non credo, la voglia l'avrebbero, però con quella assoluta parità fra loro, con quella distanza dalla loro beffe e quella malinconia per senso di frustrazione, perché poi alla fine era lo sfuggire alla vecchiaia, alla malattia e alla morte, tant'è vero che c'è anche quello. Ma vedi, soprattutto la cosa importante secondo me è che non è stato inventato niente, erano tutte leggende cosiddette metropolitane che circolavano per Firenze da molto tempo, da decenni e decenni. Era una maniera di stare nella vita che era del momento, dell'epoca, degli anni, direi fine degli anni 60, anni 70, primi anni 70. Quindi era un momento abbastanza malinconico, non era così di buffonerie, di divertimento e basta. Era una cosa corrosiva, un po' cattiva, ma al tempo stesso abbastanza disperata. Allora, non c'è niente. Niente? Ma come niente? Ma non c'è, io l'ho fatta. Vado a vedere, non c'è. Per terra non c'è niente. Professore, cosa ai può essere ai successo? Ai, ricominciamo. Caso tipico di defecatio isterica. Si ha la netta, chiara impressione di defecare e non esce nulla. Ma sì, come la gravidanza isterica. È così, all'incirca. Ma è grave? Dipende. È il retto che viene colpito da atonia isterica. Se non si sblocca, è la fine. Ah, ma poi si sblocca. Mai. Mai? Ai, ai, ai, ai. Forse siamo ancora in tempo, ragazzi. Fazzoletto, andiamo via! Incredibile, incredibile. Scherzi da cinema è il tema della nostra puntata qui alla Vita in un Film. 800 24 00 24, per raccontarci qual è il vostro scherzo da cinema preferito, in quale avete magari imparato qualcosa che poi avete messo a frutto durante una festa, chissà, magari per gabbare un amico. Mario Monicelli, il nostro ospite. Un film, Amici miei, l'enciclopedia, la Bibbia di questo genere, appunto degli scherzi, che avrebbe dovuto e avrebbe voluto fare il grande Pietro Germi. Era un progetto proprio di Pietro Germi, Amici miei, poi passò appunto nelle mani di Mario Monicelli. Allora abbiamo chiesto al grande maestro della commedia italiana come sarebbe stato, secondo lui, se lo avesse fatto Pietro Germi. Tanto sarebbe stato di bene, poi insieme, quando lui mi ha chiamato per farlo, abbiamo ragionato, eccetera, di molte cose. Lui lo voleva fare ambientare a Bologna, il che è anche una buona idea, perché Bologna era, specialmente all'epoca, poi era una città molto vivace, molto bella, e poi con un'umanità larga, disponibile, se vogliamo, anche al divertimento, alle beffe. Quindi avrebbe fatto una cosa forse un po' più cattiva, più dura di quello che ho fatto io, però ricordiamoci che lui poi ha fatto Signore e Signori, prima, era abbastanza dura le cose, sia pure con la commedia, però i dati erano quelli, la scena, i personaggi, i tipi, le beffe erano quelle che si raccontavano e che io conoscevo ancora prima forse di Germi, perché io sono toscano. E quindi una tradizione orale che poi è diventata film in Amici miei. Gli scherzi del cinema. Giulio in collegamento da Pordenone all'800 24 00 24. Buonasera Giulio. Sì, buonasera. Buonasera, allora, quale scherzo da cinema ha scelto? Ma io il film che mi ha colpito di più e che ricordo ancora è Frankenstein Junior, che è, diciamo, pieno di scherzi. Di citazioni dal film e di scherzi ai film dell'horror in generale. Certo, ma c'è uno scherzo particolare che lei ricorda in Frankenstein Junior che così le è rimasto un po' di più? Io ne ho uno, a dire la verità. Beh, diciamo il ricordo sempre con piacere il, cioè non è uno dei più famosi, ma è l'eremita che accende il sigaro, invece di accendere il sigaro accende il dito del mostro, e l'eremita cieco, e quindi genera tutto l'equivoco tra l'eremita e il mostro, che secondo me è geniale. È un film che si basa poi tutto proprio su questi equivoci, straordinario il famoso lupo ululì castello ululà, sì, con tutto è la battuta più un famosa, seguito, un seguito straordinario, e anche la candela e il suo ruolo, insomma. Frankenstein Junior, si può imparare molto anche da lì. Grazie a Giulio da Pordenone. La vita in un film. Guarda che bel vedo. Ci vado io. No, perché te? Ci vuoi io? No, si fa la compra. No, l'ho visto prima io. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo. Ma noi ci conosciamo? Lei no, ma io sì. È un parente di Crotone? Molto di più di un parente. Adelina le voleva molto bene, sa? Ma lei chi è? Che importa il nome? Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me più fisicamente, più carnalmente. Te più spiritualmente, Paolo. Ma cosa sta dicendo? Lei è stato, Adelina è stata. Per questo il mio dolore è pari al tuo. Possibile. Noi siamo fratelli nel dolore, Paolo. Ma dove, quando? Quando? È stato quando ho fatto quel corso di elettronica in Germania, vero? Non si deve mai andare in Germania, Paolo. Ma vieni fra le mie braccia, Paolo. Io ho un unico desiderio ormai, diventare tuo amico. E voglio invecchiare accanto a te, nel ricordo della nostra adorata Adelina, sposa e amante impareggiabile. Impareggiabile? Impareggiabile, troia! E questo era Alessandro Haber insieme ad Adolfo Celi, Lo scherzo del cimitero di Amici miei, un'altra pietra miliare del genere. Parliamo di scherzi da cinema in questa puntata della Vita in un film. 800 24 00 24, il numero di telefono per intervenire, per dirci se magari qualcuno di questi scherzi lo avete fatto anche voi prima o poi, e il numero per gli SMS è il 349 238 6666. Tra l'altro c'è un ascoltatore, Francesco da Verona, che ci scrive appunto dando un saluto, una stretta di mano al mitico Monicelli, e dice che tra tanti spaccati di vita ed episodi lo scherzo fatto da Bernard Blier sia stato appunto un capolavoro, uno dei tanti scherzi di Amici miei. Andiamo avanti, ma c'è prima un ascoltatore, no, mi dicono di no, allora aspettiamo che arrivi. Dicevo, andiamo avanti cercando di cambiare film per un attimo, prima di ritornare a Monicelli, ovvero portarci su un altro film di qualche anno dopo, che però nella sua generazione è rimasto molto radicato, e anche lì c'era uno scherzo davvero cinico, cattivo e straordinario. Parliamo di Compagni di scuola, dove a un certo punto il personaggio interpretato da Ferrini, lo ricorderete, dice agli amici che Santo Lamazza, un loro vecchio compagno che è Alessandro Benvenuti, è rimasto semi paralizzato in un incidente stradale. Ecco, però a un certo punto un altro amico, che è Christian De Sica, se ne accorge e gliela farà pagare. Santo Lamazza. Santo Lamazza. E che gli è successo? Incidente d'auto, un'ecatombe, ma non le leggete i giornali. Ha perso la moglie, due figli, la madre. Anche il cane, che era come un altro figlio. È rimasto un tronco umano. No, non mi fate vedere i tronchi umani, scusate. Io non fare così. Vabbè, lo faccio. È sensibilissimo. Già si vergogna, non mi vuole scendere. Piano, sostenetegli la schiena, anche la testa, gli ciondola, non lo vedete? Ma tu comandi, allora vieci tu che sei pratico. E non posso, sono la via del disco. Sono 6 mesi che lo porto in giro. E ti ricordi Ciardulli? Il patata, te lo ricordi il patata? Patata. Attenzione, piano, il gradino, piano. Uno, pronti? Andate via! No. Buono, sta buono. Hai esagerato, fai meno, sembravi un licantropo. Vabbè, scusa, mi è scappato da ridere, ho coperto. Questo era Compagni di scuola. Noi siamo ancora in collegamento all'800 24 00 24 con i nostri ascoltatori alla Vita in un film. Parliamo di scherzi da cinema. Paolo da Monza, buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Allora, ci dica un po'. Guarda, l'unica cosa che posso dire è Terapia Tapioco, mangiata a supercazzola o scherziamo? Ecco, questa è una cosa che tra l'altro su internet, se si va bene a cercare, c'è il testo integrale da parte di Certosini, che si sono messi e hanno tradotto questo straordinario scherzo, di cui tra l'altro fra poco ci parlerà Mario Monicelli, perché ci svelerà qual è l'origine di questo incredibile intrico di parole. Paolo, c'è un film in cui ha visto altri scherzi oltre ad Amici miei che le sono piaciuti, o diciamo questo rimane il cult assoluto? No, esattamente, questo è il cult assoluto che ha trasformato la mia intera esistenza di 5 anni alle superiori, soprattutto quando lo vidi per la prima volta. Penso che ci sono stati mesi interi in cui si parlava solo in questo modo, ecco, quindi sono contento di aver fatto una supercazzola adesso a Mario. Ecco, a proposito di questo, io ricordo che Paolo da Monza riceverà 2 biglietti per il cinema, così come Giulio da Pordenone, che ci ha chiamato per primo, ne riceverà 5 di serate di grande cinema col cofanetto Wasoo. Noi andiamo a sentire proprio Mario Monicelli, perché, come ha detto Paolo, gli scherzi di Amici miei sono diventati poi un must proprio per molte generazioni che li hanno ripetuti, hanno provato per esempio lo scherzo del treno, magari qualcuno le ha anche prese a un certo punto, ma insomma sono diventati sicuramente elemento di riferimento e per chi li ha amati e li ha rifatti, e anche per il cinema che poi li ha anche riproposti. E allora questo modello, questo fatto di Amici miei come modello per altri film che hanno visto protagonisti gruppi di amici alle prese con scorribande al maschile, Mario Monicelli. Beh, questo succede, sa, per quando poi un film ha molto successo si cerca di ripeterlo, questo lo cercano sia gli imprenditori, i produttori dei film, sia gli autori, insomma. Io stesso ho fatto un seguito poi, che ho fatto male, perché non si devono mai fare i seguiti. Ma voglio dire, non era tanto la qualità degli scherzi, del linguaggio che usavano, insomma, erano tutte cose che si raccontavano e che avvenivano e che poi sono state messe insieme, una dietro l'altra, e poi, vabbè, realizzate. Un viaggio, signore! Oh, Fermi tutti, quello è mio, eh! Ragazzi, sul binario 3, parti in locale per Empo! Binario 3! Calma, professore! Perché lo prendiamo? 800 24 0024, La vita in un film, scherzi da cinema, la puntata di oggi. Al numero di SMS 349 238 6666 ci scrive Andrea, che dice: come dimenticare il Marchese del Grillo con lo scherzo inerente le mura della bottega del povero commerciante in via degli Bianchi Vecchi, la ricorderete? Allora, non so se è quello che siamo riusciti a recuperare, ma sicuramente abbiamo un film, uno scherzo tratto proprio dal film Il Marchese del Grillo, e dovrebbe proprio essere quello. Sentiamo. Oh, avete finito? Ecco, stanno a finire. Io vado a vedere se arriva. No, è tutto bagnato, quello se ne accorge. Ieri sera qui c'è stata una bottega, il muro è fresco, un po' si vede. E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri. Fa sparire l'insegna, via. Mettete il pisciatore. Via, via, via, andatevene via, sparite. Oh, ma che stai, guarda. Ma questa è la bottega mia! No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via! Ma non è via degli Banchi Vecchi questa? Beh, a via dei Banchi Vecchi non si può pisciare in pace. E piscian dove pare! Ma no, addosso al negozio mio! Ambriaco, qui c'è un Vespasiano, che negozio tuo? Ma è tutto bagnato! E beh, certo, ci ho pisciato! Questo era Alberto Sordi, un altro straordinario scherzo della storia del nostro cinema. Ma chiaramente potete esprimervi anche sul cinema americano. Abbiamo sentito prima parlare di Frankenstein Junior. E l'800 24 00 24 è sempre a vostra disposizione per intervenire a questa puntata della vita in un film, che così vuole un po' giocare goliardicamente con gli scherzi da cinema, quegli scherzi che abbiamo visto fare appunto nei film sul grande schermo e che, di cui poi magari ci siamo un po' impadroniti nella nostra vita. E abbiamo detto, amici miei, è il cardine di questa trasmissione, Mario Monicelli è il nostro ospite. Gli scherzi che stiamo proponendo sono tratti da questo, ma anche da altri film. Abbiamo un film di cui vogliamo parlarvi in questo momento, che è Febbre da cavallo. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa in una puntata che era dedicata alla febbre del gioco, ma qui abbiamo voluto estrapolare proprio uno scherzo, che poi è un escamotage per cercare di guadagnare, anzi rubacchiare qualche soldo, con Enrico Montesano e Gigi Proietti che si nascondono in una cabina e fanno questa telefonata al macellaio. Macelleria Rinaldi, chi parla? Sono la governante del Conte di Simone. Vorremmo un chilo di carne di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone, Largo Arenula 2. Grazie, buongiorno. Buongiorno! Non dimenticavo. Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire. Perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Sia tranquilla, sarà fatta. Grazie, l'aspetto, buongiorno. La bevuta? Ma vaffanculo, mamma. Dove vai? Dal Conte di Simone. Ah, ultimo piano, ma l'ascensore è rotto. Sei tu il ragazzo della carne? So io. Hai portato il resto delle 100.000, sì. 94 precise, bravo. La punta di papà. Bene, bravo, di papà mi fido, è un bravo uomo. Sai, non tenevamo spicci, adesso che sali te le dà il maggiordomo le 100.000. Gregorio? Sì, signor Conte. Mi raccomando, dagliele tu le 100.000 al ragazzo ora che sale. Non ti preoccupare, un tipo strano ma non morde, vai tranquillo, vai. E che mandracata, anche questa volta ce l'avevano fatta Enrico Montesano e Gigi Proietti. 800 24 00 24, c'è in collegamento Andrea da Livorno. Buonasera Andrea. Sì, ciao, io volevo ricordare, molto simpatico e ironico, lo scherzo di Aldo, Giovanni e Giacomo della Cadrega. Certo, della sedia per ti sottotitolare. Sì, esatto, che voleva un po' anche fare una parodia, un po' fra virgolette, con il terrone, insomma, e metterlo in difficoltà. Beh, interessante che tu, che ci chiami da Livorno, che è un'altra patria, e di film importanti e di scherzi mica da ridere, insomma, abbia tirato fuori questo... Omosodo. Ovo sodo, sì. Esatto, tanto per dire uno, Paolo Virzì che lavora sempre, o sempre, o spesso nella sua Livorno, ma insomma la Toscana è patria di scherzi, non c'è niente da fare, quindi che tu abbia tirato fuori uno scherzo tutto milanese ci fa molto piacere. Grazie Andrea, due serate al cinema anche per Andrea da Livorno. C'è un altro Andrea da Firenze, chissà se come dire, si possono tollerare un livornese e un fiorentino in così poco tempo. Andrea, buonasera. Buonasera. Sono a Firenze in questo momento, ma sono napoletano. Ah beh, allora, quindi, anche lì a ecco. Scherzi non ne mancano, eh. Ecco, infatti stavo ascoltando e ho notato che ci manca il principe della risata, cioè Totò, in questa puntata. E ho fatto in fretta a chiamare perché non, secondo me non può mancare colui che è stato davvero e lo è ancora il principe della risata. Posso annoverare tra i tanti quello che è il, diciamo, lo scherzo, la truffa, tra virgolette, della vendita della Fontana di Trevi, ma ce ne sono migliaia. Beh, certo, certo, questa è proprio una delle truffe per eccellenza, ma hai fatto bene Andrea a citare Totò, perché doveva esserci dentro questa puntata e ce l'abbiamo fatta. Grazie anche Andrea, abbiamo pochissimo tempo, vogliamo lasciarvi con Mario Monicelli, abbiamo promesso che gli avremmo fatto spiegare cos'era la supercazzola e come è nato uno dei momenti più divertenti della commedia all'italiana. Sentiamo. Non so com'è nata, bisognerebbe chiederlo lì. A Firenze c'era una quantità di persone, di artigiani, di professionisti che avevano questo gusto della beffa, che sapevano fare questa cosa, per cui ti fermavano chiunque, un sconosciuto, con la scusa di chiedergli una cosa, e andavano avanti con questo linguaggio che era fra l'incomprensibile e con qualche parola che poteva far credere che il colpevole dell'incomprensione fosse l'altro, e andavano avanti per parecchio, sa, prima che di farsi scoprire. È uno dei nostri amici, Raffaello Pacini, lo dico anche sempre il nome e cognome, e lui questa cosa qui la sapeva fare in una maniera sublime, tanto è vero che ha fatto da maestro agli attori, ma non sa, loro non sono mai riusciti a farlo come lui. No, non si può mia parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parlare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o Setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, Una pulitina. E allora noi vi lasciamo, grazie per averci seguito, appuntamento lunedì qui alla Vita in un Film, domani invece alle 18 la Rosa Purpurea con tutte le novità dal mondo del cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.